Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. È una notizia che in molti avranno sicuramente letto nelle scorse settimane, qualcuno si sarà probabilmente anche un po' indignato di fronte a questa cosa. Parliamo della vicenda degli autovelox clonati, una vera e propria truffa che è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Sala Consilina in provincia di Salerno, che ha portato alla rilevazione di quasi 82.000 verbali di infrazione redatti illecitamente in 74 piccoli borghi sparsi su tutto il territorio nazionale, ma ha portato anche al sequestro di oltre 50 apparecchi del tipo Velomatic 512, che erano serviti alle amministrazioni dei comuni interessati dalle indagini per applicare appunto sanzioni per oltre 11 milioni di euro complessivamente. E allora perché ne torniamo a parlare questa mattina? Perché la questione ci dà il pretesto di tornare su un tema che vi appassiona non poco in genere, quella delle multe prese ingiustamente. Come dovranno comportarsi gli automobilisti incappati nella truffa dell'autovelox? Tra l'altro questo è un periodo un po' delicato per l'argomento, perché il Parlamento sta esaminando il restyling, chiamiamolo così, del codice della strada, con alcuni punti su cui, come scriveva proprio ieri sul Sole 24 Ore il collega Gianni Trovati, si sono già scatenate battaglie dall'esito che appare ancora piuttosto incerto. Autovelox, semafori intelligenti, cosiddetti T-RED, destinazione delle risorse che si ottengono con le multe. Noi quest'ultima parentesi, diciamo quest'ultimo punto, vorremmo non toccare questa mattina, a prescindere dalle vostre considerazioni, ma vorremmo proprio parlare, insomma, della multa che ci è stata comminata o inflitta, come si dice, non lo so, perché poi questo, insomma, è, come dire, anche un terreno che spesso incuriosisce i nostri ascoltatori. Si dice comminato o inflitta, stamattina lo scopriremo anche magari con il comandante della Polizia Municipale di Monza, Silvio Scotti. Comandante, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci di nuovo con lei. Allora, stamattina, naturalmente, come può facilmente prevedere, arriveranno un bel po' di domande dai nostri ascoltatori, ma non lo dico perché così ho la sfera di cristallo, perché vedo già quello che sta accadendo al nostro centralino da quando abbiamo annunciato la puntata, appunto la trasmissione nel corso del giornale radio. Allora vi ricordo 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, 349 238 6666, il numero pure per le vostre domande ma con la modalità SMS. Volevo rispondere, prima di raccontarvi la borsa, alla domanda di un ascoltatore che ci ha scritto: Davide, quando parlate del massimo scoperto, ha ragione Davide, la puntata era stata preorganizzata per oggi per una serie di questioni organizzative, l'abbiamo spostata a domani, per cui domani ritorniamo sulla questione di questo balzello che è stato cancellato, che è stato ridisciplinato, ma qualche banca ci sta già inviando la comunicazione e in realtà sta chiamando questa commissione banalmente con un nome diverso, e quindi, insomma, sugli scoperti di conto che durano per un tot di tempo, noi in realtà paghiamo lo stesso, però domani vi spiegheremo appunto le modalità nuove che la legge ha disciplinato, e speriamo, insomma, che non sia un nuovo pretesto per le banche per in realtà farci pagare quanto non dovremmo sugli scoperti di conto, sui fidi che ci vengono concessi e quant'altro. È una questione che è molto cara soprattutto al mondo imprenditoriale. Lasciamo però il massimo scoperto, andiamo invece alla borsa, che oggi è incerta. Era partita piuttosto bene dopo i ribassi di ieri, era partita piuttosto bene stamattina con progressi che erano di circa un punto percentuale in tutto il vecchio continente. Adesso invece la situazione è tornata ad indebolirsi di nuovo. Parigi segna un rialzo dello 0,14%, addirittura è scivolata invece in rosso. Francoforte meno 0,23%, Londra più 0,32%, Milano sta mantenendo il timone dell'Europa con un rialzo di oltre mezzo punto percentuale. Stamattina guadagnava fino a poco fa, per la verità, più di un punto, e adesso invece anche Milano si sta indebolendo. Quali titoli stamattina a Milano stanno così nell'ordine delle preferenze degli operatori? Parmalat più 3,85%, Impregilo più 3,58%, STM più 3,38%. Il gruppo dei semiconduttori beneficia del rialzo delle previsioni dei risultati del secondo trimestre della concorrente americana Texas Instruments. E poi abbiamo Buzioni, CEM più 2,62%, Lottomatica, che sta continuando a correre, stamattina è partita con un rialzo di quasi 7 punti, adesso è a più 2,37%, beneficia ancora dei buoni dati sulla raccolta di giochi e scommesse nel mese di maggio. Snam Rete Gas più 2,25 A2A più 1,65 Terna più 1,20, quindi buonina la giornata anche per le utilities, mentre abbiamo un calo di 2 punti per Saipem. Bulgari perde l'1,78, Ansaldo perde 1 punto, Fiat perde lo 0,9%, su Fiat giornata pure altalenante, come dicevamo nel giornale radio, dopo la decisione della Corte Suprema americana che ha bloccato, anche se dice temporaneamente, la cessione di Chrysler a Lingotto per effetto di un ricorso di 3 fondi pensione dell'Indiana. Unicredit bene, lo segnaliamo, giusto perché Piazza Cordusio stamattina ha recuperato di nuovo, li ha ritoccati, lo ha fatto per la seconda volta nel giro di pochi giorni, i 2 euro, adesso è a 2 euro tondi, in rialzo di 1 punto, un livello che i titoli di Piazza Cordusio non vedevano dall'ottobre scorso, quindi dall'ottobre del 2008. Io direi che possiamo lasciare la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina, parliamo di questa truffa degli autovelox clonati, ma soprattutto degli effetti, degli effetti su automobilisti, insomma malcapitati che sono rimasti loro malgrado coinvolti in questa vicenda. Sentiamo. Arrabbiature, punti della patente smarriti per strada e casse piangenti di molti comuni rimpinguate a suon di multe. La storia però sembra essere giunta al capolinea dopo l'intervento della Guardia di Finanza, che ha rilevato la manomissione di numerosi autovelox. Sono 82.000 gli automobilisti truffati e che hanno preso multe di fatto irregolari. A questo punto che fare? Alcuni esperti, per evitare di esporsi ai forti aumenti della sanzione originaria, consigliano di pagare chiedendo il rimborso del versato una volta chiusa la vicenda giudiziaria. Il Codacons, inoltre, si è già mobilitato per chiedere il risarcimento economico del danno subito dagli automobilisti. Intanto, per evitare in futuro altre situazioni fraudolente, lo Stato sta lavorando a un restyling del codice della strada. Per quanto riguarda gli autovelox, si è deciso che i comuni potranno utilizzare per la rilevazione della velocità solo strumenti di proprietà e che non potranno più affidare in outsourcing la gestione del servizio di autovelox a società di servizi, pagate in percentuale sulle contravvenzioni. Ci sarà inoltre un giro di vite sui cosiddetti autovelox mimetici, infatti diventerà obbligatorio un cartello luminoso per segnalarne la presenza. Altro tema spinoso è quello relativo ai famigerati T-RED, i semafori intelligenti, ma il disegno di legge non prevede grandi cambiamenti se non l'introduzione di una sorta di countdown che indichi quanti secondi mancano al rosso e alla possibile multa. Intanto, qual è la strada da seguire per gli automobilisti che si ritengono ingiustamente multati? Bella domanda, adesso la gireremo al comandante Scotti. Vi devo dare un'altra informazione di servizio prima di partire con la nostra chiacchierata con il comandante della Polizia Municipale di Monza, che è anche l'esperto per queste questioni per il Sole 24 Ore. Volevo ricordarvi che oggi il sito online del Sole 24 Ore organizza un forum sugli studi di settore per fare chiarezza sui prossimi adempimenti, anche per precisare il modo in cui i nuovi criteri anticrisi potranno alleggerire il peso fiscale per i contribuenti in difficoltà. Il Sole 24 Ore ha organizzato questo forum online, visibile gratuitamente oggi a partire dalle 15.30, ovviamente dal sito internet di casa vostra. All'incontro prenderanno parte gli esperti dell'Agenzia delle Entrate, ai quali sarà possibile anche indirizzare quesiti e domande attraverso la casella di posta elettronica studio@ilsole24ore.com. Comandante Scotti, siamo a lei finalmente. Ben trovati. Eccoci qua. Allora, io tra l'altro vorrei cominciare prendendo a spunto quanto anche lei ha scritto ieri insieme a Gianni Trovati e a Maurizio Caprino sul Sole 24 Ore di questa vicenda. A fronte della notizia di sequestri disposti dalla magistratura, magari anche per reati gravi, scatta una generata reazione indignata. Rispetto a questa vicenda degli autovelox clonati, che ovviamente ha portato anche a comminare, a sanzionare ingiustamente molti automobilisti, qual è secondo lei il punto che ha indignato di più? La modalità con la quale poi effettivamente, come dire, i comuni fanno quadrare i bilanci? Ma io direi che soprattutto invece come punto critico vedo la caduta della fiducia nei confronti delle istituzioni. Mm. Il problema credo che sia questo, nel senso che ovviamente per primi gli enti pubblici, chi indossa una divisa, ma anche le stesse società che gestiscono questi strumenti dovrebbero essere i principali garanti della legalità. E il la caduta della fiducia del cittadino determina una reazione a catena poco controllabile. Anche perché, come ricostruiva per l'appunto Maurizio Caprino ieri, stiamo parlando di una lunga storia di appalti e strumenti truccati, per cui la vicenda di Sala Consilina in provincia di Salerno, per la verità, purtroppo è l'ultima di una lunga serie. Comunque, torniamo a noi, andiamo alle nostre informazioni concrete, ai nostri ascoltatori, perché quello che volevamo affrontare questa mattina è il tema del comportamento degli automobilisti incappati nella truffa dell'autovelox. Potranno essere in qualche maniera risarciti se la multa che a loro è arrivata, se il verbale che a loro è arrivato non è corretto, non ha ragione di esistere. Prima le chiedo però, comandante, una volta che ci viene rilevato dall'autovelox un eccesso di velocità, entro che termini in genere ci viene notificata la multa, la sanzione? Perché anche la questione dei tempi ai fini del ricorso è rilevante. Necessariamente entro 150 giorni dalla violazione. Quindi sono 3, 6, 9, 12, 4 mesi e mezzo circa? Sono 5 mesi, perché in realtà calcolando... Giorni lavorativi? Sì, esatto. Comunque, questo è un calcolo che può essere fatto con estrema tranquillità. Si tratta di verificare il giorno in cui è stata commessa la violazione e una volta considerato questo giorno se ne contano 150 e si verifica qual è la data in cui il plico, cioè quindi la raccomandata, è stata affidata al servizio delle poste. Se è entro 150 giorni, cosa che però generalmente viene rispettata, la notificazione deve ritenersi regolare. A parte quello clonato, naturalmente, l'autovelox può sbagliare? Il rilevatore elettronico di velocità è sempre imbattibile? No, non è sempre imbattibile, però sono strutturati, almeno per le strumentazioni delle quali io ho esperienza, perché ce ne sono molti modelli e non posso dire di conoscerli tutti, solitamente gli errori sono macroscopici. A me è capitato di rilevare, di vedere un funzionamento di un autovelox che scattava la fotografia e risultava l'auto passare ad oltre 1000 km/h. Ah, quindi si tratta di situazioni che sono piuttosto evidenti. Quindi ecco, in quel caso, per esempio, un rilievo di quel tipo è assolutamente contestabile. Certamente, perché, anzi, solitamente è lo stesso operatore che si rende conto di avere in mano una non infrazione, perché non è possibile contestare un'infrazione di quel tipo. Solitamente sono... Però ecco, qui stiamo parlando in generale di malfunzionamenti, in realtà poi sono abbastanza controllati, nel senso che solitamente vengono controllati prima dell'utilizzo, vengono controllati durante, quindi esiste un controllo a vista. Qui stiamo parlando di un'altra fattispecie, di una situazione di illegittimità piuttosto evidente, una situazione truffaldina sulla quale è necessario porre rimedio, tra l'altro anche in maniera problematica, perché la situazione attualmente è sub iudice, ci vorrà tempo prima di ottenere una sentenza e quindi nel frattempo trascorreranno dei termini, questo è il problema serio. Infatti, e tra l'altro, da quello che ho potuto capire leggendo il suo pezzo di ieri, lei conclude: per evitare di esporsi ai forti aumenti della sanzione originaria, il consiglio è quello di pagare chiedendo il rimborso del versato una volta chiusa intanto la vicenda giudiziaria e magari anche in attesa che il Parlamento disciplini di nuovo questo restyling di cui parlavamo all'inizio del codice della strada, comandante. Sì, esatto. Io diciamo che propongo una strada di questo tipo. Allora, se si è nei termini, senza dubbio il ricorso è la strada migliore, tenuto conto che la cosa più agile e snella che può fare un'amministrazione è fare una propria inchiesta interna, verificando se effettivamente quei numeri dell'autovelox erano clonati. Perché? Perché un'indagine amministrativa interna è molto più snella invece di un procedimento penale che ha ben altre caratteristiche, ben altre garanzie e problematiche molto più ampie. Una volta verificato che effettivamente c'è una situazione di illegittimità, si possono tranquillamente accogliere tutti quanti i ricorsi o addirittura in via di autotutela, sempre che l'amministrazione si riconosca questo potere, bloccare la notificazione dei rimanenti verbali. Io intanto le comincio a sottoporre anche le considerazioni dei nostri ascoltatori all'800 24 00 24, comandante, perché questo è un tema che magari un pochino ci farà anche divertire. Quest'oggi Berardo dalla provincia di Teramo, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei è per il pagare sempre e comunque, anche se l'autovelox è taroccato? Ma guardi, pronto? Sì, ci siamo, Berardo, in diretta. Ecco, io sto, tra l'altro mi trovo proprio vicino ad un punto dove in Abruzzo, qui sotto Castellalto, sì, è stato installato uno di quei famosi autovelox che dovrebbero servire per rimpinguare le casse dei comuni. Vabbè, diciamo basta che l'obiettivo questa... teoricamente non è questo, ma è in qualche maniera... No, alla fine è questo, alla fine è questo. Allora. Glielo dico per cognizione di causa, e se mi dà 2 minuti poi le spiego anche come fanno. Il problema invece è un altro, e lo avete creato voi giornalisti. Eccoci perché? Qua, bene. Perché il fenomeno non è quello degli autovelox taroccati o dei semafori, eccetera. Il problema è che in Italia gli automobilisti sono di una indisciplina totale. Ecco, su questo ci troviamo d'accordo. Mi spieghi quale responsabilità avremmo noi? Mi segua. Se io passo con il rosso, commetto un'infrazione, a prescindere dal fatto che il semaforo sia taroccato, l'autovelox, il semaforo altirebbe, quindi voi giornalisti dovreste ribaltare tutta l'impostazione di questo lavoro, altrimenti il Codacons, per esempio, o altre organizzazioni ci sguazzano dentro. Berardo, vabbè, guardi, adesso io non ho capito esattamente dove volesse arrivare. Mi fermerei alla prima parte della sua considerazione. Lei dice, insomma, vi spiegherei anche come fanno i comuni a rimpinguare le proprie casse utilizzando gli auto. I giornali sono stati pieni di ricostruzioni di questo tipo. L'ho rifatto, lo ricordo anche a Maurizio Caprino ieri sul Sole 24 Ore, ricordando le vicende del Veneto, del Lazio e della Calabria. Magari ve le ricordo io di nuovo se avremo del tempo. In realtà l'autovelox non ha questo obiettivo in origine, comandante Scotti, ci mancherebbe altro. L'obiettivo è quello comunque di far rallentare le persone che transitano su determinate strade, quindi non è che poi vengono piazzati ovunque, c'è bisogno di autorizzazioni specifiche, per cui l'obiettivo è un altro. Poi ovviamente le modalità con cui certi comuni hanno dato in outsourcing questo servizio è tutta un altro paio di maniche, sulle quali poi ovviamente tante indagini sono partite. Comandante, mi aiuti un po' lei a dipanare questa matassa. Ma certamente il signor Berardo punta l'attenzione sul fatto che dobbiamo privilegiare la sicurezza stradale, e io sono d'accordo con lui. Tuttavia dobbiamo pensare che noi abbiamo avuto una restrizione di posizionamento, quindi di utilizzo dell'autovelox, proprio perché ce n'è stato un abuso. Da un lato, molte volte esistono dei limiti di velocità che sono poco giustificati, nel senso che su strade dove magari si può viaggiare a 70 km orari spunta un limite di 50 che francamente è difficile da giustificare, no? E quindi magari un segnale poco congruo. Dall'altra parte un utilizzo magari improprio e non proprio finalizzato alla sicurezza delle strade. Io credo che la sicurezza stradale vada garantita, che la legalità sia un valore, che si debba rispettare il codice della strada perché in gioco ci sono delle vite umane, però bisogna rispettare un po' le regole del gioco, quindi la legalità vista dall'altra parte. Posso, no, necessariamente, per esempio, posizionare un cartello di limite di velocità, ma è necessario che l'ordinanza sia motivata, che io spieghi perché lì ci va un limite di 30 orari piuttosto che di 50, piuttosto che uno di 70. E quindi è necessario che l'ente pubblico diventi trasparente e che faccia dei controlli finalizzati proprio alla sicurezza stradale. Nel famoso restyling del codice della strada a questo punto c'è, comandante? Sì, vede. Però io credo che poi, al di là delle regole che scriviamo, sia fondamentale la professionalità e la correttezza con cui queste vengono poi applicate, messe in atto concretamente. Perché anche precedentemente esisteva un'idea condivisa di utilizzare l'autovelox per determinati fini. Il problema è se questa idea condivisa poi viene applicata. Allora, sì, è un tema molto interessante che a Salvadanaio non abbiamo modo di trattare, perché vorremmo entrare invece nel merito dei suggerimenti pratici per i nostri ascoltatori. C'è Silvia da Prato. Silvia, se lei ci riesce a fare la sua domanda in 30 secondi, gliela faccio fare adesso, poi devo dare la linea ai colleghi del GR. Sì, ci provo. Brava. Allora, senta, io ho ricevuto 2 multe a 30 km di distanza l'una dall'altra, dove il limite era 90 km orari, con un esubero, diciamo, in chilometri di 10. Allora, diciamo, l'autovelox, volevo sapere come fare a chiedere se era norma, e inoltre se è necessaria anche una segnaletica orizzontale sulla strada, come, siccome era la FIPLI, non era un'autostrada, era una strada, ora non so di preciso come. Allora facciamo una cosa, Silvia, magari se riesce così a rifare un po' mente locale sulla faccenda. Io comunque ho anche capito anche la questione, insomma, della segnaletica preventiva rispetto al punto in cui l'autovelox è eventualmente installato, che è un altro punto fondamentale. Eccoci di nuovo a Salvadanaio questa mattina con il comandante della Polizia Municipale di Monza, Silvio Scotti. Stiamo facendo un po' di chiarezza sulla questione degli, come dire, autovelox taroccati, clonati. Una vera e propria truffa recentemente è stata scoperta in provincia di Salerno, ha portato a rilevare quasi 82.000 verbali di infrazione redatti illecitamente. Allora, partendo da questa notizia di cronaca, siamo arrivati al punto che invece vuole affrontare Salvadanaio: come si devono comportare gli automobilisti che incappano in un autovelox che rileva magari un eccesso di velocità non a ragione, ingiustamente, perché può capitare anche un errore tecnico di questo tipo. E insomma, naturalmente questo tema ha aperto il varco a tutte le vostre considerazioni anche su altri aspetti, le modalità con cui i comuni, come dire, sistemano anche i propri bilanci, tante le questioni aperte. Allora, Silvia da Prato, l'avevo brutalmente interrotta, la ripeschiamo. Silvia ci ha raccontato che a distanza di 30 km sulla medesima strada, immagino Silvia, ha preso due multe. Quindi due autovelox, come dire, è incappato in due autovelox in questa distanza, giusto? Sì, in due autovelox. Appunto, è una strada di grande comunicazione, sono andata a vedere ora su internet, che è la FIPI lì. Quindi non so ora come viene gestito, diciamo, dal punto di vista autostradale, perché so che gli autovelox dovrebbero essere segnalati sia verticalmente che orizzontalmente con le strisce che attraversano appunto la sezione stradale. Non so ora e come poter fare per verificare se l'autovelox era a norma. Quanta pecunia, quanto le è costato tutto questo? Allora, quanto le costerebbe, Silvia? Ecco, in pratica 184 euro l'una. Ah, però... anche perché tra l'altro lì al comandante Scotti avrei voluto anche chiedere qual è la sanzione massima che può essere combinata o inflitta, insomma, per eccesso di velocità rilevato con autovelox. Comandante, da che cosa partiamo con Silvia? Dunque, partiamo dal fatto proprio che gli autovelox devono essere comunque segnalati. Lo prevede l'articolo 142,6 bis del codice della strada, quindi è possibile tranquillamente chiedere dove fossero posizionati i cartelli e verificarlo. Può essere questo comunque un presupposto per il ricorso valido? Addirittura, se fossero stati assenti i cartelli, il verbale sarebbe considerato nullo. Perfetto, quindi Silvia già intanto... Addirittura noi abbiamo avuto una sentenza della Cassazione datata 13 marzo 2009, se non vado errato, dove si ipotizzava addirittura il reato di truffa nel caso in cui il Multanova non fosse segnalato e fosse occultato. Di conseguenza si tratta di una situazione che va immediatamente verificata. Dopodiché, per quanto riguarda l'omologazione, basta chiedere informazioni ai comandi di polizia che hanno proceduto, che credo siano diversi. Cosa vuol dire l'omologazione, mi scusi comandante? Cioè che l'autovelox, l'apparecchio che misura effettivamente la velocità, se... sia di quelli omologati. Ho capito, quindi che non fosse taroccato. Esatto. Quindi direi immediatamente di fare queste due verifiche. A patto che Silvia sia ancora nei tempi per poter attivare ricorso. Perché sì, ricordiamo che si tratta di 60 giorni. Tuttavia, nel caso in cui magari si trattasse di autovelox che non sono omologati, si può comunque chiedere all'amministrazione procedente di agire in autotutela e quindi di archiviare direttamente la sanzione perché è mancante dei presupposti di legittimità. A quanta distanza deve stare un autovelox da un altro? Chiaramente immagino che questo dipenda dal tipo di strada che si percorre, ma prendere due multe a distanza di 30 km non è una distanza così minima, cioè anche perché in 30 km può cambiare la natura della strada, le modalità con cui la velocità viene rilevata e possono essere anche magari dei punti strategici dove normalmente si rilevano più incidenti del solito, perché ricordiamoci che la limitazione della velocità serve a questo, non ad altro. Infatti, e lo ribadiamo, messaggio che abbiamo dato anche all'inizio della trasmissione. Comandante, allora mi sembravano messaggi diversi, poi ho appurato che in realtà è lo stesso ascoltatore che è un po' accanito su questo punto. Vergogna, invitate un vigile, e sono proprio loro che truccano gli autovelox, vigili lavorate a provvigione, sono i vigili che taroccano i semafori. Dunque, avete guardi, anche allora, tempo da perdere a fare questo. Guardi, non lavoriamo assolutamente. Provvigione, vabbè, questo è divertente. Abbiamo invece tutto l'interesse ad avere un rapporto corretto con la cittadinanza, perché ricordiamoci che siamo anche polizia locale, quindi siamo molto stanziali sul territorio, non mutiamo facilmente, quindi è necessario anche pensare a questo, che il nostro ruolo, difficile sì, ma è un ruolo che dura nel tempo, quindi è necessario avere un ottimo rapporto con i cittadini. E se esistito qualche personaggio di questo tipo, senza dubbio non è rappresentativo della categoria. No, tra l'altro il dubbio che viene che non riguarda magari i vigili urbani, ma il fatto che comunque sia un'amministrazione comunale ad avallare il cosiddetto taroccamento, è che, come abbiamo già avuto modo di appurare prima, molto spesso questi servizi vengono delegati totalmente ai privati. Questo è il punto al centro dell'inchiesta di Salerno, ma anche di quelle precedenti che hanno già arricchito le pagine delle cronache dei nostri giornali, e molto spesso queste società che appunto tengono in appalto questo servizio ovviamente vengono remunerate sulla base del numero delle multe che riescono ad appioppare, comandante, molto banalmente. Ed è sbagliatissimo, perché deve essere sempre l'autorità di polizia stradale che controlla l'utilizzo e soprattutto che valida quel tipo di utilizzo del velomatic. Allora, andiamo ad un altro ascoltatore, si chieda più tempo in attesa, Fabio? No, Cesare da Latina. Cesare, buongiorno. Sì, buongiorno signora Deborah, buongiorno. Senta, una serie di domande. Allora, la prima, il colonnello Scotti credo che abbia già accennato alla... L'abbiamo anche, sì. Non so se l'abbiamo... No, perché l'ha chiamato colonnello, stavo... Ah, non so, il comandante. Comandante, sì, scusi. Scusi. Il comandante Scotti ha parlato della sentenza della Cassazione e che ci deve essere previsto un cartello 400 metri prima della postazione, prima dell'autovelo. Sì. Io percorro qualcosa come 60-70 mila chilometri l'anno, sì, tra automobile e autocarro, conto molti autovelox, ma io tutti questi cartelli 400 metri prima non li vedo, primo. Sì. Spesso sono in punti dove ci sono dei limiti molto difficilmente da rispettare, molto difficile che si rispettano. Che anche questo è un punto che il comandante... Io percorro spesso la pontina, magari in un chilometro ci sono 30 variazioni di limite di velocità, ci vorrebbe un software, credo, per riuscire a stare attenti ad ogni limite di velocità. Quindi a questo punto sì, l'autovelox è giusto che ci sia, però ci deve essere anche dalla controparte, facilitare anche l'automobilista. Un'azione di responsabilità complessiva, Cesare. Guardi, io credo che il comandante Scotti, il colonnello, il maresciallo, come lo vogliamo chiamare, generale, le va bene. Comandante, in ogni caso tutti i punti sollevati da Cesare li abbiamo già toccati nel corso di Salvadanaio. Ribadiamo ancora una volta, anche proprio ai fini di un eventuale ricorso, a che punto dobbiamo trovare un'informazione preventiva rispetto alla posizione dell'autovelox e poi sì, materialmente dove sta. Certamente, il decreto prevede 400 metri prima e entro i 4 chilometri. Ce ne sono così pochi allora di comunicazioni preventive rispetto alle postazioni, da quello che abbiamo capito. Lei ha qualche dato rispetto a questo? Beh, io ho ragione, dei dati, Cesare, che non li vede mai? Ovviamente ho dei dati che si riferiscono al territorio che meglio conosco, che quindi è quello di Monza, e dintorni solitamente sono segnalati. È vero che però mi giungono parecchie segnalazioni di persone che dicono: ma io sono sicuro di non avere incrociato alcun cartello preventivo. E questo, ripeto, si torna nel rapporto di fiducia e di legittimità. Allora, sentiamo Angelo. Tra l'altro vorrei anche parlare di questo benedetto ricorso, nel caso in cui appunto la multa che c'è stata comminata appunto perché viaggiavamo magari secondo limiti non corretti, e quindi insomma l'autovelox ha rilevato questa cosa, ma qualora scoprissimo di avere invece ragione, di essere stati dei conducenti e degli automobilisti corretti, il tema del ricorso ancora non sono riuscita ad affrontarlo rispetto appunto all'autovelox. Sentirei un'altra domanda di un ascoltatore, che è Fabio da Roma questa volta. Fabio. Sì, salve. Buongiorno. Senta, io volevo appunto denunciare in un certo senso il fatto che sulla strada, io faccio rappresentante, e di questa strada che sto appunto per dire sono che sento un ritorno tremendo. Allora, guardi, Fabio, noi qua la sentiamo invece benissimo, facciamo una cosa, magari proviamo a richiamarla. E comandante, cominciamo un po' così a capire qual è il percorso che bisogna seguire per eventualmente fare un ricorso, appunto, se siamo incappati in questo autovelox clonato. E siccome abbiamo capito che in base all'ultima inchiesta abbiamo almeno 80.000 verbali di infrazione redatti illecitamente, Allora, se scopriamo che siamo uno di questi, che cosa facciamo? Dunque, io direi, allora, innanzitutto in linea generale, controllare i tempi, 150 giorni della notificazione, verificare che sia stato, che si tratti di un apparecchio regolarmente omologato, verificare che vi sia stata la presenza dei segnali preventivi. Se siamo certi di essere incappati in una di quelle situazioni dove l'autovelox è clonato oppure esista soltanto il rischio che sia clonato, preparare il ricorso. Il ricorso può essere indirizzato alla prefettura o al giudice di pace entro 60 giorni dal ricevimento del verbale, segnalando proprio questa situazione. Io credo che la stessa pubblica amministrazione, che dovrà necessariamente da un lato preparare le controdeduzioni o comunque presentarsi in giudizio, chiederà l'annullamento proprio perché sussistono dubbi sulla legittimità del verbale. Qualche ascoltatore dice, ma insomma, se questi autovelox erano insediati in qualche comune in cui magari, che ne so, ci sono molti casi, no, di multe che sono state inflitte senza giusta causa, perché non prevede direttamente l'amministrazione comunale ad annullare le multe? Certamente, è anche nel potere dell'amministrazione comunale, però bisogna anche pensare che l'amministrazione comunale si deve attivare su a sponte, certo, mentre la segnalazione del cittadino ovviamente crea quel presupposto per una risposta e per un'indagine globale che consente ovviamente di fare l'indagine amministrativa interna. E infatti, ecco qua intanto ho ripescato il messaggio, che era quello di Umberto, che proprio diceva, ma insomma, se un'amministrazione, come dice il suo ospite, si accorge dell'illegittimità, perché devo io perdere molto tempo per il ricorso e non annulla l'onoro i verbali, Umberto? Infatti anche questa è una strada che è assolutamente percorribile. Stiamo qui sempre parlando di un'azione di responsabilità generale, che è quella sulla quale il comandante si spende molto. Sì, lo so che avevo promesso a Fabio da Roma di sentirlo, però Fabio, abbia ancora un secondo di pazienza, perché voglio invece dare la precedenza a Stefano da Vicenza, visto che stiamo parlando di automobili, di multe, ovviamente devo dare la precedenza. Stefano da Vicenza, lei è presidente di un comitato? Sì, il comitato Multavilla. Multavilla è bellissimo già, ma il nome del paese, insomma, oppure il termine multa non è stato rimesso a caso nel nome di questo comitato? Il nome del paese è Altavilla Vicentina, noi l'abbiamo ribattezzato Multavilla. Ecco, che cosa vi è successo? Niente, noi nel 2006 è successo che nell'arco di 6 mesi sono state inflitte circa 20.000 multe ad un semaforo T-RED. Ah, questa quindi è la questione del T-RED in questo caso, sì. Una questione di T-RED. Il semaforo intelligente teoricamente dovrebbe essere. In teoria sì. Poi noi abbiamo notato che c'era qualcosa di strano, abbiamo formato questo comitato, abbiamo presentato circa 8.000 ricorsi al giudice di pace. Finora ne abbiamo vinti circa 3.500, però l'amministrazione comunale non vuole sentire ragione, senza contare che la ditta che ha installato queste apparecchiature riceveva in compenso 30 euro più IVA per ogni multa elevata. E infatti anche qua è il punto che abbiamo toccato prima, questa modalità con cui si delega totalmente ai privati questi servizi e anche le modalità con cui queste società vengono remunerate per appunto poi fare il loro lavoro. Stefano, io la ringrazio molto, questa amministrazione che non ci sente è un punto, però l'Unione fa la forza. Stefano ha addirittura costituito un comitato, questo giudice di pace praticamente da qualche anno non farà altro che esaminare i ricorsi di questa vicenda. Però, comandante Scotti, allora il T-RED che cos'è, che non è l'autovelox ma una cosa diversa invece applicata ai semafori? Certamente, si tratta di un sistema di rilevazione automatica del passaggio col semaforo che non consente di passare. Perché uso questa circolocuzione? Perché poi leggendo sui giornali ci siamo convinti tutti quanti che con il semaforo proiettante luce gialla si possa transitare. Non è vero, nel senso che con il semaforo proiettante luce gialla bisogna fermarsi, così prescrive il codice. Poi la norma può essere sbagliata, la possiamo scrivere in maniera diversa, possiamo dire che si può passare anche con il giallo, però attualmente si prevede che, salvo che si sia già impegnato l'incrocio. Allora, se ho già impegnato l'incrocio quando è scattata la luce gialla, allora posso continuare il transito. Il problema è che la taratura dell'apparecchio avviene con un rispetto rigoroso della legittimità della norma. E questo fa sì che, siccome è ormai in uso il transito con il semaforo giallo quando sta passando dal giallo al rosso, allora ecco, in certi punti magari di certe città è bene che questa abitudine venga limitata. Ecco. Il problema è capire come bisogna applicare la norma. Cioè, allora, posso anche assolutamente convenire sul fatto che si possa modificare la norma, però prima dobbiamo modificarla e poi applicarla Atteniamoci a quello che abbiamo in questo momento. Certo. Dunque, quando è possibile contestare l'applicazione del T-RED? Beh, direi in diversi casi. Innanzitutto quando, per esempio, il tempo del giallo è incongruo rispetto all'ampiezza dell'incrocio, no? Perché non esiste un limite per il semaforo giallo. Questo ovviamente va calcolato su quanto è ampio l'incrocio. Proviamo a pensare a, per esempio, un incrocio ampio 40 metri con un giallo che duri soltanto 2 secondi. È evidentemente incongruo. Secondo, se la taratura dell'apparecchio può dare così adito a dei dubbi, perché basta il semplice dubbio, no? Per procedere all'archiviazione. Per esempio, quando la fotografia non coglie in maniera corretta il transito con il semaforo rosso, ma magari ne coglie degli aspetti che non sono significativi. Ecco, perché nel caso del T-RED, così come per l'autovelox, la notifica che ci viene fatta a casa viene corredata anche dalla fotografia? Beh, la fotografia va generalmente richiesta, in alcuni casi viene allegata. Comunque è sempre possibile esaminarla ed è sempre possibile verificare non soltanto l'ora, ma quanto tempo è durato il transito e rispetto ai colori semaforici. No, nel frattempo stavo leggendo un messaggio di un ascoltatore che ci dice, qua ritorniamo all'autovelox taroccato, l'ascoltatore dice: io ho già pagato la multa, il comandante della polizia del paese interessato, che è Mogliano, che io so che è in provincia di Macerata, non so se ce ne sia anche un altro in un'altra zona d'Italia, è stato indagato, l'autovelox è stato tolto, a questo punto cosa devo fare? Dunque, può chiedere il rimborso direttamente all'amministrazione comunale segnalando la situazione. Nel caso l'amministrazione non dovesse ottemperare, può esperire un'azione che si chiama di ingiustificato arricchimento per ottenere il rimborso di quanto versato. È rivolta a chi in questo caso? Sempre nei confronti dell'amministrazione comunale, perché se ovviamente si parla di comandanti di polizia locale, evidentemente è l'amministrazione comunale che aveva piazzato l'autovelox. Stavo ripensando al caso del comitato Multavilla, che è stato organizzato da questi abitanti di questo paese che appunto si erano imbattuti in questo T-RED malfunzionante, tanto per dirla con un eufemismo. Perché secondo lei sono andati subito al giudice di pace rispetto al prefetto? Ma io credo che con per i numeri di pace, essendo un processo senza formalità, è possibile stare in giudizio direttamente, si cerchi un rapporto diretto con chi deve giudicare della bontà o meno del verbale. Io credo che sia questo, che sia questa la forza del ricorso al giudice di pace. Fabio, l'ho fatto aspettare fin troppo, buongiorno. Eccoci qua. Salve, buongiorno a voi. Senta, io volevo veramente denunciare un autovelox che posso, io faccio rappresentante, abito a Roma, sì. Ma la strada della quale sto parlando è quella Cassino-Formia, che è molto nota sia agli abitanti che a chi fa il mio mestiere, tutto sommato. Al chilometro, guardi, sono preciso perché ho fatto proprio una fotografia al tabello, al chilometro 32.000 della strada statale appunto 630 Ausonia, è posto un autovelox che innanzitutto non è il classico autovelox, è quel tipo che sta sul palo, è tipo una sorta di scatolotta in alto. Vetustissimo, insomma, un baroccone. Esatto, sì, che non si vede. Ad occhi poco esperti non si sa assolutamente che quello sia appunto un autovelox. La cosa però bastona, è assolutamente. No. Che non è assolutamente segnalato da nessuna parte, neanche sull'autovelox stesso, e poi è posto non nella direzione di marcia, perché lui è posto in sostanza sul lato opposto di marcia, che però guarda evidentemente la targa dietro per la direzione, diciamo, sud, per capirti, cioè chi esce dall'autostrada a Cassino e percorre la strada verso Formia appunto, lui è posto alla parte là della carreggiata sul lato sinistro e guarda evidentemente dietro la targa. Ha preso molte multe, Fabio, a causa di questo autovelox con tutte queste caratteristiche? Questo sinceramente no, ne ho prese altre, perché per il mio lavoro purtroppo ogni tanto ci incappo, anche se oramai veramente vado pianissimo, ma a volte capita, Fabio, ci mancherebbe. sono proprio assurdi, tutto sommato. Ma comunque, questo mi sembra veramente un abuso, guardi. Grazie Fabio, grazie. Magari il comandante andrà, anche se non è un'area evidentemente di sua competenza, sono sicura che la sua curiosità lo muoverà anche verso la zona di Cassino Formia. E non riesco a sentire Angelo da Parma, che lo stesso voleva raccontarci di una sua zona che frequenta evidentemente, dove è diventato impossibile viaggiare perché c'è un auto velox dietro l'altro. Speriamo almeno, Angelo, che siano correttamente comunicati in via preventiva, come dicevamo prima. Non riesco a sentire neanche Flavio della provincia di Treviso, però comandante, comunque l'invito è sempre quello, insomma, intanto speriamo di non imbatterci in auto velox taroccati, ma andiamo piano per strada. Direi di sì, anche perché ricordiamoci che l'autovelox dovrebbe tutelare la nostra sicurezza. Infatti. Grazie molte per essere stato con noi, ci risentiamo presto, magari ci ritorniamo su questo argomento. Salvadanaio termina qui, a domani.